giovedì 27 giugno del 2013, 87.900 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa e diamo inizio con qualche minuto d'anticipo a Visionari per la trasmissione di cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15, tanti gli ospiti di oggi, per contattarci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, la pagina sul sito internet della radio che è ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari vi dà tutte le informazioni sulla scaletta di oggi ma non solo, e poi potete ascoltarci oltre che dalla vostra radio anche dal sito internet, sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta, c'è anche un'altra pagina di Visionari su Facebook. In collegamento con Massimo Galimberti, curatore di San Marchino al Circolo degli Artisti, rassegna che comincerà, anzi è cominciata ieri 26 giugno, andrà avanti fino al 31 agosto. Massimo, ben ritrovato a Visionari su Onda Rossa. Grazie a voi, buongiorno, ciao a tutti. Allora, il Chino si trasferisce all'aperto, un'arena, un'estate, allora raccontaci un po', dacci una panoramica un po' di quella che sarà questa lunga estate. Sì, l'estate sarà lunga perché abbiamo cominciato ieri e dovremmo finire la nostra programmazione a fine agosto. Anche quest'anno ci siamo spostati all'aperto dopo l'esperienza dell'anno scorso e ci siamo trasferiti all'interno del Circolo degli Artisti in via Casilina Vecchia 42, dove siamo riusciti ad allestire in collaborazione con il Circolo una sala all'aperto, un'arena all'aperto per un centinaio di posti, un bistrò da 150 coperti più un'altra zona per live, presentazioni di libri, piccole performance musicali o teatrali e un'altra zona privé. Quest'anno sarà un'estate molto lunga che è cominciata appunto ieri e che tendenzialmente sarà caratterizzata un po' dalla programmazione che classicamente caratterizza la programmazione invernale del Chino, per cui un cinema sommerso, cinema italiano e internazionale che si vede poco, documentari e appuntamenti ovviamente di incontri con registi ed autori dei film in programmazione. Ieri dobbiamo ammettere che è andata molto bene l'apertura con la proiezione di Padrone di Casa, è venuto anche Edoardo Gabriellini, il regista, ad incontrare il pubblico, la proiezione è andata molto bene, oggi proseguiamo con Spring Breakers e poi alle 10 la proiezione e alle 8 ci sarà Giuseppe Genna che presenterà all'interno di uno spazio live Fine Impero, il suo ultimo libro edito da Minimum Fax. In questi giorni ci saranno ovviamente altri titoli, tra cui Bella Smariposa il sabato 6 luglio di Salvatore Mereo, un film che è stato presentato a Venezia che Salvatore sta praticamente distribuendo a mano, sì, sì, casa per casa, per cui ci fa molto piacere che lui abbia voglia di proporlo nella nostra arena, oppure domenica 7 e lunedì 8 Holy Motors di Leo Carax, che è un regista di culto per molti di noi, che ha presentato questo film a Cannes l'anno scorso e che noi riproponiamo in versione originale con i sottotitoli, come un po' che è un po' la caratteristica di tutta la nostra programmazione internazionale. A questo si aggiungono ovviamente molti altri appuntamenti, tra cui una collaborazione che abbiamo stretto insieme al Biografilm Festival di Bologna, per cui domenica 14 presenteremo 0 a 0, un film di Paolo Geremei su un gruppo di calciatori e aspiranti calciatori della Roma. È un documentario che appunto ha vinto il Festival Biografilm, che è estremamente bello e molto appassionante. E poi abbiamo altri titoli come ad esempio Clip, fatto in collaborazione con il Balkan Foreign Express, che è una festival balcanico, un film aperto, avuto un Ti sento male, Massimo. Non so, vai e vieni, non so cosa sia successo. Ok, dicevo appunto questo film serbo che ha avuto un enorme successo all'estero, che ovviamente in Italia si sono visti in bene da distribuire, che noi proveremo a presentare il venerdì 12 luglio e poi a far circuitare un po' in altre sale, in altri spazi in tutta Italia. Altro appuntamento interessante è quello di Ricette d'autore, gestito da Gianluca Polverari, che praticamente prevede la presenza di un musicista che racconta la propria ricetta ideale, che verrà realizzata dal nostro chef all'interno del bistrò e poi servita al pubblico a corso che vorrà gustarne. Da questo punto di vista è interessante anche l'appuntamento di mercoledì 3 con Slow Food Story, un documentario di Stefano Sardo che racconta un po' la genesi e l'evoluzione di Slow Food. Sì. È un appuntamento che abbiamo realizzato in collaborazione direttamente con Slow Food, per cui sarà interessante anche gustare alcuni prodotti, alcune prelibatezze alimentari. Senti Massimo, allora ci sono appuntamenti fissi settimanali, come è strutturato? Ci sono dei giorni oppure tutti i giorni? Allora la programmazione è tutti i giorni, lunedì fino alla domenica. L'orario della proiezione è intorno alle 22, perché ovviamente dobbiamo aspettare che cala la luce del sole. Certo. L'ingresso è 5 euro, e poi sì, in realtà ci sono appunto il giovedì, a parte questo venerdì come primo venerdì in cui c'è qui sono ricette d'autore, il giovedì di solito abbiamo l'appuntamento con ricette d'autore, la domenica c'è una specie di aperitivo veneziano, per cui ci saranno dei piatti veneti caratteristici di quelle zone, di uno spritz leggero, pratico, come si usa lì da loro, quindi a costi estremamente contenuti, proprio un piccolo aperitivo, e per il resto sì, si continua con una programmazione che non finisce più, insomma, sì. No, ecco, volevo chiederti anche quante sono più o meno le opere che presenterete, e immagino anche con la presenza degli autori. Ma guarda, in genere tutto il cinema italiano, che sia cinema di finzione che documentario, prevede la presenza dell'autore, del regista, degli attori, sì, o di entrambi. Ad esempio nella seconda quindicina di luglio presenteremo Miele di Valeria Golino, ovviamente Valeria verrà, oppure La città di Ale, l'opera prima di Locascio, verrà anche lui ovviamente. Sì. E per il resto il numero di titoli è estremamente, estremamente ampio, perché se calcoli che tendenzialmente noi abbiamo un film diverso ogni sera, a parte un paio di occasioni, tra cui non so, Spring Breakers questo venerdì e questo sabato, oppure Holy Motors domenica 7 e lunedì 8. In linea di massima cambiamo programmazione ogni giorno, appunto per offrire una panoramica più ampia e per permettere poi al pubblico di poter accorrere senza variando ogni volta la proposta che facciamo e l'offerta che facciamo. A questo punto diamo come riferimenti il vostro sito internet per la programmazione. Sì, il nostro sito internet, assolutamente sì, nel nostro sito internet c'è tutto, che è www.ilchino.it, oppure la nostra pagina Facebook. Poi abbiamo creato anche una piccola casella email per informazioni, che è summer@ilchino.it. Benissimo. Per chiunque voglia venire, insomma, potremmo, comunque voglio informarsi, insomma, i mezzi per informarsi, per avere informazioni sulle attività ci sono, altrimenti mandare un'email per ricevere informazioni dirette da noi. Massimo, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie tante a voi, buona giornata, ciao. Massimo Galimberti, curatore del Summer Kino al Circolo degli Artisti qui a Roma da ieri 26 giugno fino al 31 agosto. In collegamento con Laura Chiossone, regista del film Tra 5 minuti in scena, in uscita in sala oggi 27 giugno. Laura, benvenuta a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti. Ciao. Allora, raccontaci un po' di questa avventura, come è nata, come si è sviluppata. Beh, intanto è la mia opera prima, per cui potete immaginare la mia emozione, visto che questa sera debutto in sala e quindi sono molto molto felice. Il film è un film molto particolare, che vi consiglio di non avete mai visto un film così in tutti i sensi, perché parte da una storia vera, cioè un pezzo del film è una storia vera, è fatto proprio con il linguaggio del documentario. Ne racconta le vicende di Gianna, un'attrice non più giovanissima, di teatro, alle prese con una mamma molto anziana e purtroppo non più autonoma di cui prendersi cura. E la particolarità del film è che poi dalla realtà si sviluppa, per cui Gianna viene chiamata a interpretare uno spettacolo di teatro sullo stesso tema della sua vita, una figlia con una mamma un po' ingombrante, caratteriale, divertente, anche perché lo spettacolo teatrale è una commedia di cui occuparsi. E però è un film alla fine che lega questi due piani, la realtà e la finzione, in modo che in molti stanno trovando interessante, quindi siamo molto felici della risposta che abbiamo fino adesso. Bene, ecco, come era nata l'idea di riprendere il rapporto tra madre e figlia? È nata dall'incontro tra me e Gianna Coletti, l'attrice protagonista, e Anna Coletti, la sua vera mamma, che è un personaggio incredibile di cui mi sono innamorata appena l'ho conosciuta. Gianna mi raccontava le sue rocambolesche avventure, disavventure di cura, amore, dipendenza reciproca con la sua mamma. Gianna è, ha un carattere per cui riesce a fare sarcasmo ed ironia anche di situazioni più tragiche, e questo mi ha molto affascinato, cioè riuscire a raccontare una situazione di difficoltà con leggerezza, che è una capacità insita della personalità reale di Gianna. Quando ho conosciuto sua mamma è scoppiato l'amore, perché la mamma di Gianna è Sid Vicious, che parla in milanese, è una 93enne cieca in sedia a rotelle, non si muove ma ti mette a sedere in un istante, è una donna con un senso dell'umorismo nero anche incredibile, e quindi è venuta spontanea la voglia di raccontarle, perché trasmettono tantissima umanità. Bene, senti Laura, è una mamma molto ingombrante, anche perché ha lavorato duramente, ha fatto dei sacrifici per poi far entrare la figlia nel mondo dello spettacolo, e le dice anche: quando diventerai famosa mi comprerai una villa al mare, insomma. Sì, non ci dobbiamo immaginare una roba pietistica, tutto amore, gioia e rose tra madre e figlia, sì, cioè un rapporto, sì, con tutte le sue difficoltà. La mamma di Gianna è una che gli ha fatto un mazzo così a Gianna, un po' tipo bellissima con la Magnani, diciamo. Gianna dice sempre: la Magnani in confronto era una santa con la sua bambina, cioè è stata una donna che gli ha segnato tantissimo la vita. E la cosa, e mi permetto di usare la parola interessante dal suo punto di vista di autrice e di regista, che gliela segna tuttora, nel senso che alla fine è grazie a sua mamma che Gianna poi alla fine ha fatto film e quindi continua e prosegue il cerchio di dipendenze tra di loro. Mm-mm. La tua esperienza cinematografica è cominciata con degli spot e con videoclip musicali, con documentari, diciamo così, di finzione più che di testimonianza, e anche questo film mette insieme finzione con documentario, e c'è il teatro. E come ti ritrovi in questo in questa mescolanza di linguaggi? Beh, il passare attraverso formati di regia diversi mi è stato naturale per imparare a fare regia, letteralmente, e perché il lavoro, il mestiere con il quale la gavetta con la quale mi sono formata, appunto, gli aspetti più pop del videoclip, che penso di aver riportato nel film con il gusto musicale. Il gusto musicale del film è molto giovane, molto internazionale. Gli aspetti più estetizzanti, se vogliamo, della pubblicità, sì, anche quelli in una parte del film trovano il loro spazio, perché c'è moltissima, nonostante il tema sia un tema sociale, se vogliamo, il film trasuda bellezza. È sulla bellezza del corpo della donna anche il film, ci sono attrici che interpretano la donna e la femminilità in tutte le fasi della vita, e c'è un grande lavoro di estetica sul loro corpo, ma anche sul corpo di Anna Coletti, che ha 93 anni. Io trovo nel film che il direttore della fotografia l'abbia resa bellissima, con la sua attenzione così ravvicinata alla sua pelle, al suo corpo. Sì, sì. E quindi mi è naturale un po' lavorare attraverso formati diversi, e quindi è stata anche in questo caso, diciamo, che la creatività si è unita alla possibilità produttiva, perché il fatto di unire tre formati ci ha permesso di girare il film in 2 settimane. Perché la parte documentario è una parte produttivamente semplice, l'ho girata da sola con la mia cameretta fotografica in tutto il tempo che volevo. La parte teatrale è veloce da girare, sono 3 camere, lo stile è quello televisivo, se vogliamo, l'abbiamo girato in piano sequenza in 1 o 2 giorni. La parte di costruzione più narrativa, più estetica cinematografica, ci ha preso l'investimento effettivo per un film piccolo e indipendente come il nostro, era quello a cui potevamo ambire, di 2 settimane di riprese, appunto. Senti Laura, da oggi nelle sale quante copie a disposizione? Sono 10 città la prima settimana, dovremmo salire a 15 la seconda, se tutto va bene, ma se cominciamo a riempire le sale dalla prima settimana, c'è sempre adesso c'è abbiamo superato degli step positivi, diciamo. Intanto il film è venuto e secondo me è venuto benissimo, è già un miracolo, perché un film così piccolo e così particolare, io per prima non mi aspettavo un risultato così. Due, usciamo in sala, che mi sembra incredibile per un film così piccolo e indipendente. Tre, la stampa sta rispondendo divinamente, stanno uscendo delle recensioni bellissime. Adesso se ci premiasse anche il pubblico, lasciandoci la possibilità di dare spazio al passaparola in modo che il film faccia abbia un po' più vita del cinema medio, che in Italia sta fuori un weekend e poi scompare, sarebbe bellissimo, perché secondo me è un film che merita il tempo del passaparola. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto, resta un attimo. Grazie, in linea Laura. In collegamento con Pippo Del Bono, regista di Amore e Carne, in uscita in sala oggi 27 giugno. Pippo, ben ritrovato. Ciao, ciao. Ci eravamo sentiti più di un anno fa per l'occasione della presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, durante la manifestazione organizzata dal Teatro Valle Occupato. Pippo, allora, oggi esci in sala. Amore e Carne, raccontaci un po' di questa storia. Ma è una storia che parte da un viaggio, parte da uno stereotipo biografico, si parla di una malattia, si parla dell'AIDS e si parla di quelle cose che sono ancora tabù, fortemente tabù. Sì, sì, sì. Soprattutto sì. Nel nostro paese, perché non se ne può parlare, di cui ci si maschera e quindi in qualche modo poi ti senti il dovere di parlarne, partendo da lì, e poi diventa un viaggio comunque verso gli altri, verso lo sguardo sugli altri, verso l'incontro col mondo, cioè come comunque a quel punto si dimentica quella cosa e si entra, proprio la cosa te la porti dentro e poi parli degli altri, del mondo, del senso del vivere, del senso della morte, del senso della rivoluzione, no? È un po' quello, ma ho fatto quasi tutto con un cellulare, in qualche modo mi ha permesso anche di essere libero, cioè di guardare le persone, di lasciarsi guardare, no? Sì, sì, sì, sì. Questo è importante, cioè se no non sei solo quello che riprende, ma sei anche quello che si lascia guardare a sua volta, no? Ecco, proprio in questo senso, Pippo, mi dicevi che insomma è un'anima che incontra altre anime, e in questo senso le riprese effettuate con un telefono cellulare hanno delle imperfezioni che si addicono insomma a questo linguaggio di anime. Sì, anche se poi bisogna dire, a parte che una parte girata anche una piccola full HD, però sempre camere che stanno in una mano. Sì. No, devo dire che poi incredibilmente le imperfezioni sono paradossalmente sono assolutamente ridotte al minimo, anche perché poi c'è stato un lavoro di post-produzione importante e devo dire che ormai ci sono dei mezzi tecnici che soprattutto ormai lo utilizzo un po' da queste piccole camere, lo utilizzo da diversi anni e so che con certe luci questa camera te mi dà una qualità poetica che ricorda molto la pellicola, paradossalmente, perché il telefonino usando, come poi le camere, le macchine fotografiche, usando i 24 frame al secondo, 25 non ricordo, non è come il video che hai questa sensazione di immagine televisiva, in effetti hai la sensazione della pellicola. E questo sicuramente poi, infatti ho visto, mi ricordo a Rio de Janeiro, Amore e Carne, proiettato in una sala di buona qualità, i brasiliani, alla fine tutta la domanda era: ma che cellulare aveva, signor Destro? no, cioè c'è da dire che non è assolutamente sperimentale, se si vuole usare quella parola, anzi è molto carnale, sì. Anche perché poi ci sono dentro le musiche di Laurie Anderson, dove io canto sopra, c'è la musica di Balanescu, c'è la musica di Michael Galassi, degli Etanarcisti, questo gruppo livorno toscano, no, con cui ho lavorato, quindi c'è un rapporto molto importante musicale. A un certo punto diventa un concerto di musica, è importante che però il casse, l'audio sia buono. Sì, no? Sì. Sì. A proposito di carnalità, dici un po' di questa scelta del titolo Amore e Carne. Ma nell'amore e carne mi sembra che ci sia una parola chiave di un nostro tempo, no? Cioè quando si parla di AIDS, quando si parla di omosessualità nascosta, di sesso, di pornografia, di soubrette, c'è sempre questa parola un po' strana, carne, no? Carne proibita, carne nascosta, portarne i corpi belli, fintamente belli, no? Il corpo del mostro, il corpo della normale, mi sembra una parola che è importante, la carne che anche non si vuol vedere, nascosta, velata, la Maria Vergine, Cristo nascosto, c'è tutta una cultura cattolica in cui secondo me abbiamo creato la nostra grande arte, ma anche la nostra gabbia, la nostra prigione, no? E quindi mi sembra che questa dicotomia amore e carne, che io dico all'inizio, dico la malattia portata dall'amore e dalla carne, sì. Poi alla fine nelle parole che io canto, diciamo canto, recito, canto di Arthur Rimbaud, che in fondo poi diventa un grido, dice l'amore, la natura è amore e carne, amore e carne, amore e carne allo stesso tempo è amore e carne, mm-hmm. No? E in questo senso è questa carne che si vuole nascondere, che si vuole strumentalizzare, che si vuole prostituire per raggiungere i livelli del potere, ma poi allo stesso tempo è anche quella carne che può parlarci invece di una umanità diversa, no? Sì, sì, sì, sì, sì. Oh, nella scorsa nostra conversazione parlavi anche di un film che è una ricerca di una lucidità di sguardo. Eh sì, che comunque provi a essere nel momento giusto a prendere le cose giuste, no? Quando avevo fatto la paura che ero entrato in un campo rom, quando ero stato questo funerale di questo africano che era stato ucciso con una spranga di ferro, io avevo filmato il funerale dove non c'erano assolutamente né politici né religiosi, non c'era nessuno a quel funerale, io ero lì un po' per casualità, un po' perché l'ho voluto andarci. Allora questa, diciamo che anche questa volta in una maniera anche poetica, che però diventa politica in qualche modo, ero lì in quei momenti in cui c'era bisogno e sentivo che era giusto quelle immagini per quello che volevo raccontare, mm-hmm. Non per quella drammaturgia che in qualche modo era una drammaturgia non tanto scritta, ma per me è una drammaturgia di stomaco, cioè voglio raccontare delle cose, non hai ancora ben capito che cosa, ma sai che vuoi parlare di certe cose. Allora a quel punto lì la camera che mi porto in tasca, quando sento che quella cosa che sta succedendo, anche co-creato, perché in americano ci sono anche, tra l'altro ci sono anche tra Bobo, il giattore sottomuto, diciamo ormai che è diventato il mio teatro, il mio cinema, il protagonista assoluto, e comunque c'è anche, non so, Irene Jacob, l'attrice di Kieslowski, c'è Marisa Berres, c'è Tilda Swinton, che appare un poco, ma comunque c'è, appunto c'erano questi grandi musicisti, c'è Maria Agnese Girolle, tra dell'Opera di Parigi, che sono amici che hanno voluto partecipare a questo viaggio, no? Sì, sì, sì, sì, sì. E questo però mi ha permesso di stare lì e guardarli anche in un altro modo, non sono le star, sono esseri umani che possono essere un vecchio che cammina, può essere Bobo, può essere mia madre, può essere la prima ballerina dell'Opera di Parigi, no? Cioè a me non interessa il ruolo, interessa l'essere umano che poi anche ha giustamente ruoli diversi, no? Sì, sì, sì, sì. Da oggi nelle sale, Pippo, quante copie? Da oggi nelle sale a Roma arriverà sicuramente la prossima settimana, perché come dire c'è sempre un po' di ritardo, però arriverà la prossima settimana, quindi bisogna stare allerta, no? Adesso sì. Sta partendo nella periferia e fra qualche giorno sarà in sala a Roma, no? Bene, quindi, bene. Faticosa l'uscita di un film però sì. Ce la stiamo facendo. A questo punto diventa un fatto politico. Quante sono, Pippo, le copie di partenza? No, questo film è tutto fatto in digitale, tutto in digitale. Sì, sì, comunque no, adesso sta uscendo, diciamo prima, adesso sta uscendo, siamo a Pesaro, Perugia, cioè chiamiamo uscendo dove rimane in tiratura. Ah, no? Ok. Perugia, poi Pordenone, poi Mantova, poi quindi sarà itinerante. Sì, itinerante, ma è giusto anche pensare un cinema, noi come sì. In Francia, anche in Francia parte da Parigi, poi da certo. Lì va. Cioè bisogna anche, noi abbiamo voluto una distribuzione che non fosse la distribuzione del cast dell'ultimo weekend, no, sì, grazie. Sì, sì, sì, sì. Cioè una distribuzione, perché c'è anche tanta gente che ha voglia di andare a cercare delle cose, no? Perché questo è proprio anche un pensiero diverso. Quindi poi adesso arriva a Roma, a Milano. Come dire, ci prendiamo il nostro tempo, certo. Distribuito dalla Tacker, no? Sì, sì, prendiamoci sì, il nostro tempo, tanto non c'è tempo. Giusto. Pippo, io ti abbraccio, a risentirci alla va prossima. Bene. Ciao. Un abbraccio, ciao. Ciao. Pippo Del Bono, regista di Amore e Carne, in uscita oggi nelle sale. Itinerante, come ci ha appena spiegato. Per contattarci, visionari@ondarossa.info, la pagina della trasmissione la trovate sia sul sito internet della radio ondarossa.info sia su Facebook. Antonio Piazza, co-regista del film Salvo, anche questo in uscita oggi, giovedì 27 giugno. Antonio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie mille. Allora, il vostro cortometraggio precedente ha avuto molti riconoscimenti, Il Nastro d'Argento qui in Italia, e poi ha girato più di 100 festival con decine di premi. Questo film invece è stato a Cannes, ha vinto anche qui dei premi e finalmente ce la fa ad uscire in Italia. Sì, finalmente ce la facciamo. Siamo arrivati a Cannes senza una distribuzione italiana, fatto abbastanza insolito per un film italiano, forse addirittura era la prima volta che accadeva, e avevamo già una distribuzione francese. Il film nel frattempo veniva comprato da altri paesi del mondo, dal Brasile, dall'Inghilterra, dall'Australia, ma non arrivava alla distribuzione italiana. E abbiamo dovuto vincere la Semaine de la Critique. Lì finalmente qualcosa è cambiato. Allora, siete di Palermo, la fotografia tra l'altro è curata da Daniele Cipri, e avete deciso di partire proprio da Palermo per questo vostro debutto nel lungometraggio di finzione. Sì, per noi è stata una scelta naturale, direi obbligata. A Palermo, abbiamo lasciato Palermo diversi anni fa, un po' per completare i nostri studi fuori, un po' perché ti confesso che le stragi del 92 avevano lasciato sia in me che in Fabio avevano provocato una frattura molto profonda nel rapporto con la nostra città. Tanta rabbia, la rabbia ti fa andare via ma nello stesso tempo ti lega al posto da cui provieni. Quando abbiamo deciso di dirigere, scrivere e anche dirigere una storia nostra, è da lì che siamo ripartiti. Sì, sì, sì. Allora, per chi ci ascolta, come lo descriveresti in breve? Guarda, Salvo è la storia di un incontro molto particolare tra un killer di mafia e una ragazza non vedente. Inizia come un film noir, e gioca molto con il genere, anche con il thriller e con altri generi, ma poi l'incontro di cui parlavo, questo incontro che avviene dentro una casa di Rita. Salvo entra di nascosto per uccidere suo fratello e deve aspettare, c'è una specie di danza reciproca di controllo. Rita si rende conto della presenza di questo estraneo. Poi succede qualcosa tra di loro di straordinario, che fa letteralmente precipitare i due protagonisti in una storia diversa, e con loro il pubblico. Una storia più intima, con direi più spirituale, legata a una possibilità di redenzione, di salvezza, un'aspirazione verso la libertà. Ecco, prima parlavi della scena dell'incontro, che è una scena cruciale, molto, molto lunga e claustrofobica. La claustrofobia è un elemento ricorrente nel film, e dà proprio l'idea della prigionia, dello stato di prigionia di entrambi i protagonisti. Ecco, in quella scena una videocamera in soggettiva o comunque addosso ai corpi dei protagonisti che si alterna nella prospettiva. Prima la prospettiva è quella di lei, poi quella di lui. Giocate molto anche sul non visto e sui rumori. Ecco, in una società molto basata sull'immagine, è una scelta molto profonda questa. Sì, la tua descrizione è perfetta. È vero che il film gioca sul tema della prigionia e nello stesso tempo dell'aspirazione verso la libertà. I protagonisti sono a loro modo diverso tutti dei prigionieri. I due protagonisti principali sono due ciechi in modo diverso. Rita ha una cecità fisica e il nostro protagonista è un killer di mafia, possiamo dire affetto da una cecità morale. Essendo la cecità importante per noi, quello che non si vede nel film, quello che è fuori campo, era altrettanto importante di quello che si vede. Di conseguenza abbiamo il suono, è stato per noi un elemento decisivo da un punto di vista artistico. Abbiamo dedicato gran parte delle nostre energie, peraltro avvalendoci di collaboratori straordinari, e appunto costruisce una trama di racconto che è tanto importante quanto quella delle immagini. Sì, sì, sì. Due elementi cruciali sono quelli alla base di questo, di questa sorta di fuga. Da una parte la possibilità di una relazione, quindi nel senso più ampio potrebbe essere un sogno d'amore, e dall'altro la libertà. Sì. Sì, sì, sì. C'è una aspirazione verso la libertà, come dicevo, un desiderio, è un tema che ci affascina, che torna in tutti i protagonisti nel film, anche nelle venature anche diverse. Nel film, per esempio, è presente una coppia interpretata, a nostro avviso, magistralmente da Luigi Locascio e Giuditta Perriera. Sono una coppia di piccolo borghesi, proprietari di una lavanderia, che danno ospitalità a questo latitante di mafia che è il protagonista del film, e in loro, diciamo, raccontiamo questa misteriosa attrazione verso il potere. Che ci siano gli oppressori, non solo in Sicilia ma ovunque, gli oppressori tiranni, diciamo, è un'aspirazione comprensibile, seppur ovviamente non condivisibile. Ma per noi più inquietante, più misterioso è quasi invece il desiderio di essere oppressi, sì. Il bisogno di essere oppressi e la paura della libertà. Una sottomissione, una sottomissione introiettata in qualche modo. Sì, sì, sì, sì. Questo è un tema che ci stava a cuore. È questa sorta di miracolo che si chiude tra Rita e Salvo, rompe questo schema, li mette un po' contro il mondo a cui appartengono e gli dà la possibilità di magari di una vita diversa, non volendo rivelare l'evoluzione, certo, della trama. Certo. Sì. Antonio, io ti faccio i complimenti, il film l'ho visto, l'ho anche recensito, da oggi nelle sale quante saranno le copie? Circa 50 copie. Beh, non è male per un film d'esordio, insomma. Non è male per un film d'esordio, siamo molto felici e ringraziamo Good Films che è arrivata e ha creduto in questo progetto. Usciamo a fine giugno, si dice sempre di prolungare la stagione del cinema, e lo si fa con alcuni grandi blockbuster americani. Proviamoci con un film italiano. Esatto. Bene, un abbraccio, aspetta un attimo in linea. Ecco noi Fabrizio Boni, co-regista del film Space Metropolis, che sarà presentato proprio al Metropolis qui a Roma il 30 giugno, quindi domenica. Fabrizio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille. Buongiorno. Beh, a tutti. Chiaramente ho letto la mail, ho visto il trailer, ho detto parliamone sicuramente. Di cosa parla questa storia? Allora, questa storia parla, innanzitutto parla di un'occupazione che esiste a Roma da 4 anni in una ex fabbrica, un ex salumificio di Roma situato sulla via Prenestina, occupato nel 2009 da circa 200 persone, famiglie di italiani emigranti senza casa. Sì. E racconta una storia che io e Giorgio, l'altro regista, abbiamo voluto inventare per provare a poggiare il nostro sguardo su questa realtà. E quindi racconta la storia di una comunità di occupanti che, stanchi di essere continuamente spinti a soluzioni sempre più estreme, a vedersi negati i diritti, il lavoro, la casa, decidono di costruire un razzo spaziale per andare a vivere sulla Luna. Il film chiaramente si ispira, insomma, in parte al Viaggio sulla Luna di Méliès, in parte a Miracolo a Milano di De Sica, insomma, si ispira ovviamente molto alla lontana, il nostro è un piccolo film. E questa è la storia che abbiamo provato a raccontare. Senti, come avete conosciuto questa realtà e come avete deciso poi di raccontarla e di dargli questo taglio di quasi fantascienza? Abbiamo conosciuto questa realtà insieme agli Stalker, che è un gruppo di artisti e architetti romani, nell'anno, proprio nel 2009, stavamo insieme a loro facendo un giro del raccordo anulare a piedi, una sorta di mappatura dei confini della città, percorrendo a piedi tutto il perimetro del raccordo anulare, e siccome uno degli studenti di Francesco Careri, che insegna alla facoltà di architettura, uno dei suoi studenti era uno dei, anche degli occupanti di Metropolis, ci ha voluto portare al Metropolis, che si trova vicino al raccordo anulare, e lì abbiamo conosciuto questa fabbrica. Io e Giorgio ci eravamo conosciuti sul set di un altro documentario nel più grande campo rom d'Europa, che era l'ex Casilino 900, sì, poi sgomberato appena si è insediato Alemanno, e abbiamo scelto questa chiave perché abbiamo pensato che la fantascienza e la fantasia potevano consentirci di raccontare una storia difficile e complessa del presente con maggiore libertà e con maggiore leggerezza. Sì. Volevamo poter fare un film su un'occupazione che però aprisse delle prospettive piuttosto che denunciare dei limiti e delle difficoltà. Gli uomini e le donne dell'occupazione si sono riconosciuti in questo lavoro? L'abbiamo proiettato per la prima volta al Metropolis domenica scorsa, sì, per questo infatti abbiamo rimandato la proiezione a domenica prossima, domenica 30 appunto, questa qui, ed è stato accolto molto bene, si sono divertiti molto, si sono emozionati, ci hanno ringraziato, e molti hanno anche capito in realtà per intero che cosa è accaduto in un anno di progetto, perché le riprese del film e tutto il progetto, che poi è diventato un progetto artistico all'interno del Metropolis, è durato più di un anno e ha portato lì dentro artisti, intellettuali, filosofi, persone di ogni genere, davvero ha fatto accadere lì dentro tantissime cose, e a volte tanti degli abitanti presi inevitabilmente insomma dalle faccende di tutti i giorni e da questioni direi anche più urgenti, di quelle di costruire un razzo sulla Luna, che comunque è ed era una provocazione, si sono resi conto vedendo il film di quante cose sono accadute in quell'anno. Forse è stata proprio la Luna che è arrivata all'occupazione. Esattamente, il nostro obiettivo era quello, insomma, quando abbiamo presentato il progetto al comitato dei blocchi precari metropolitani, che è il gruppo che guida l'occupazione, e all'assemblea degli abitanti di Metropolis, abbiamo capito che l'idea di proporgli di scappare non gli piaceva troppo, insomma, per un gruppo che combatte ogni giorno per difendere un posto, l'idea di anche fingere di abbandonarlo non era un'idea che gli piaceva molto, ma insieme abbiamo trovato questa chiave, cioè che il progetto avrebbe trasformato il Metropolis nella Luna e quindi avrebbe permesso di compiere questo viaggio senza spostarsi. Domenica 30 giugno la presentazione, e poi che succederà, Fabrizio? Domenica 30 giugno la presentazione del film al pubblico a Metropolis, dopodiché il film, che è stato presentato in anteprima al Fanta Festival di Roma, alla Casa del Cinema, parteciperà ad altri festival, sarà a Milano al Festival del Cinema d'Arte, sarà in Puglia al Salento Film Festival e sarà ad altri festival che adesso ancora non possiamo annunciare perché non abbiamo, come dire, le notizie ufficiali, e speriamo dopo l'estate di proiettarlo nuovamente a Roma in un'altra sala. Vorremmo poterlo proiettare in tutti i modi, non avrà una distribuzione cinematografica, cercheremo di dargli una distribuzione televisiva e di usarlo come strumento per aprire prospettive e riflessioni sul presente e sul futuro di questa città, della crisi che sta vivendo la nostra società e di tante cose che si sono aperte, insomma, di tante porte che si sono aperte con questo film. Senti, avete un sito internet per saperne di più? Sì, c'è un sito internet che si chiama www.spacemetropolis.com. Lì potete trovare tutte le informazioni, il trailer, il cast artistico, il cast tecnico, la rassegna stampa. Abbiamo appena lanciato un meme del poster del nostro film su Facebook, sulla pagina Facebook di Space Metropolis, che vi invitiamo a visitare e a mandarci la vostra foto di una faccia lunare che appunto ricorda quella del poster del nostro film, che è una foto di un bambino dell'occupazione con una mano sull'occhio a ricordare la luna di Méliès. Fabrizio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao. Fabrizio Bonico, regista del film Space Metropolis, che sarà presentato proprio al Metropolis qui a Roma domenica 30 giugno. Per contattarci, visionari@ondarossa.info, proseguiamo con gli ospiti. E siamo in collegamento con Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei secoli fedele, il caso di Giuseppe Uva, che sarà presentato, che sarà proiettato questa sera al Centro Sociale Forte Prenestino, un'iniziativa per quanto riguarda Scarceranda, l'agenda di Radio Onda Rossa contro ogni carcere. E, Adriano, dovresti esserci se non sbaglio. Sì, pronto. Eccoci qui. Salve. Allora, con te già è il terzo collegamento che facciamo, perché ne avevamo parlato quando fu presentato al Nuovo Cinema Aquila e poi per la proiezione al Forte Prenestino, e di nuovo questa sera oggi ne riparliamo con te, perché sarà questa sera al Forte Prenestino. Tutto parte da un libro, Ma la polizia, giusto? Sì, esatto. Allora, dicci un po' di questa vicenda. Sì. Sì, in pratica nasce da Mala Polizia, nel senso che tra tutti i capitoli, tra tutti i casi di cui ho parlato nel libro, ho scelto di mettere in immagine quello di Giuseppe Uva, perché era il più complesso, intricato e controverso di tutti, ma non nel senso di una scala di importanza di un caso rispetto all'altro, ma proprio perché offre tutta la gamma possibile e immaginabile di torture istituzionali, omissioni, tutto ciò che può essere un quadro chiaro di come funzionano la magistratura, le forze dell'ordine e in questo caso anche gli apparati sanitari, quando si tratta di chiarire le circostanze in cui un uomo affidato allo Stato è morto. Ci accorgiamo quindi di come si passano un po' la patata bollente tra di loro, in questo caso per stessa ammissione del primario di psichiatria, il professor Bender, che prese in cura Giuseppe Uva dopo l'arresto e dopo che fu portato via dalla caserma, per stessa ammissione del professor Bender parlò proprio di patata bollente passata da quella caserma a Varese al loro reparto d'ospedale. Mm-hmm. Per chi non ricordasse cosa è successo a Giuseppe Uva, lo spiego in estrema sintesi. Si tratta di un ragazzo che una sera di ormai 5 anni fa venne arrestato insieme a un suo amico, perché si spostava delle transenne in mezzo alla strada, venne trattenuto in caserma 3 ore, dopodiché non si sa perché né per come dalla caserma arrivò la richiesta di un'ambulanza e di un trattamento sanitario obbligatorio, e Giuseppe si ritrovò in ospedale nel reparto di psichiatria, dove morì poche ore dopo all'alba. Mm-hmm. Da lì sono partiti diversi processi. Il principale è quello a carico del dottor Fraticelli, che ricordo è stato assolto sia in primo grado che in appello, è stato assolto dall'accusa di omicidio colposo. Mm-hmm. Quindi allo stato attuale ancora non si sa chi ha cagionato la morte di Giuseppe. Allora, questo è uno degli esempi su cui ti sei voluto concentrare, ce ne sono molti altri. Quello più eclatante è i risultati del processo sono molto recenti sul caso Cucchi. Molte analogie, dalle responsabilità appioppate ai sanitari, ai testimoni non ascoltati, alle omissioni per quanto riguarda le lesioni, ma anche altre prove. Insomma, un quadro che si ripete da nord a sud, dalla città come alla provincia, sempre ai danni dei più deboli o dei devianti. Sì, l'analogia principale, hai detto bene, tra la storia di Stefano Cucchi e quella di Giuseppe Uva è il fatto che non siano mai stati ascoltati i carabinieri, o meglio coloro dai quali tutto parte nel momento dell'arresto. Sappiamo che Stefano Cucchi è stato trasportato da una caserma all'altra prima di finire al Pertini, prima di finire nella cella di Piazza dei Cori e poi al Pertini al reparto detentivo. Questa cosa è avvenuta per Uva. Il punto nevralgico di tutta questa vicenda, che ormai va avanti da 5 anni, ripeto, è che non si è mai il pubblico ministero che ha istruito il processo non ha mai voluto ascoltare né il principale testimone, che è Bigiogero, ma né tantomeno gli 8 tra poliziotti e carabinieri che hanno preso in carico Giuseppe Uva dopo l'arresto. E questa è l'analogia principale. Che ricorre poi in tante altre storie. Tra l'altro poi ci sono state delle spiacevoli novità per quanto riguarda ad esempio il documentario. Sì, diciamo che 5 degli 8 pubblici ufficiali, per l'esattezza 2 carabinieri e 3 poliziotti, hanno querelato sia me in qualità di autore, sia Francesco Menghini in qualità di regista per diffamazione aggravata. Quindi si tratta in tutto di 3 denunce, 2 per il documentario e 1 per il libro a scoppio ritardato, perché ormai il libro è uscito 2 anni fa. Insomma, siamo in attesa, un fatto recente, siamo in attesa degli sviluppi. Non penso di poter dire qualcosa di articolato su questo, perché veramente siamo proprio all'inizio, non abbiamo elementi per una valutazione di nessun genere. E contestualmente alle 3 denunce l'avvocato dei carabinieri poliziotti ha chiesto il sequestro del film su tutto il territorio nazionale. Che è una richiesta, e lascio un po' il tempo che trova, perché adesso, a prescindere dalla proiezione di stasera, il film con o senza di me va comunque in giro da solo, cioè le iniziative, anzi, quando inizia la querela le iniziative si sono addirittura moltiplicate. Quindi non penso sia nel potere di nessuno fermare il film. Certo. Tra l'altro, ecco, tu stasera purtroppo non ci sarai. La proiezione a che ora è prevista per stasera al centro sociale? Mi dicono per le 9. Per le 9, quindi per le 21. Per chi volesse avere più informazioni sul tuo lavoro, Adriano, i riferimenti internet quali sono? Vabbè, c'è la ormai consueta pagina Mala Polizia su Facebook, e da poco siamo riusciti ad aprire finalmente il sito della nostra società di produzione, che è www.soulcrime.it. Benissimo. Dove troverete tutte le notizie del caso. Adriano, io ti ringrazio, un abbraccio. Grazie, è sempre, insomma, sono sempre contento di sentirti. Speriamo che la prossima volta ci ospiterete, avrò buone notizie. Ecco. Esatto, esatto. Ciao Adriano, a presto. Ciao. Ciao. Adriano Chiarelli, regista del documentario Nei secoli fedeli, il caso di Giuseppe Uva, questa sera alle ore 21, Centro Sociale Forte Prenestino, qui a Roma. Al telefono Alberto Crespi, direttore della 19ª edizione di Narni, le vie del cinema, rassegna di cinema restaurato dal 2 al 7 luglio. Alberto, ben ritrovato. Ben ritrovati a voi, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, quasi tutti gli anni ci sentiamo, un anno sono riuscito anche a venire al festival. Quali sono le... devi venirci anche quest'anno. Abbiamo una grande novità, abbiamo i film restaurati per bambini, quindi per gente della tua età. Benissimo, benissimo. Ci andrei a nozze proprio. Allora, 19ª edizione, quali sono le caratteristiche, per chi non lo conoscesse, di questo festival? Il festival si occupa appunto da 19 anni di tenere viva la memoria del nostro cinema proiettando solo ed esclusivamente restaurate, appunto. Ma quella che ti facevo poco fa non è una battuta, è la verità, è delle novità dell'edizione di quest'anno. C'è un doppio schermo, quindi il grande schermo per i classici, e uno schermo un po' più piccolo dove proietteremo tutta una serie di cartoni animati restaurati, rivolti appunto a un pubblico di bambini di ogni età, naturalmente, perché i cartoni animati piacciono anche a noi, naturalmente. Certo. Senti, ci sono vecchi classici dell'animazione italiana come La Rosa di Baghdad, tutti i lavori di Giannini e Luzzati sulle musiche di Rossini, delle cose veramente molto belle. Bene. Alberto, quante sono le opere che presenterete quest'anno? Sono sei serate, ma i film sono 7, perché ci sono 5 film italiani, 3 classici come Roma ore 11, Roma città aperta e La dolce vita, sono 20 anni dalla morte di Fellini. Poi c'è il film con Domenico Modugno nel blu, dipinto di blu, che è stato anch'esso restaurato di recente. Un restauro di un film recente in realtà, un restauro in digitale finalizzato al mercato del non video, che è Ladri di saponette di Maurizio Nichetti, sì. E verrà Maurizio Nichetti, che è un grande appassionato di tecnologie tra l'altro, a spiegarci che tipo di intervento ha fatto lui stesso sul suo vecchio film per restituirlo, per restituire le immagini allo splendore originario. E poi sabato 6 luglio facciamo, come si usava al cinema una volta, doppio programma, cioè una doppia serata hollywoodiana in collaborazione con la Universal, che ha restaurato tutta una serie di titoli del suo straordinario catalogo in occasione del centenario che c'è stato l'anno scorso, per cui faremo all'imbrunire Squalo e sullo schermo gigante di Narni, con la qualità della proiezione dal Blu-ray, sarà secondo me un'esperienza devastante per gli spettatori, sarà bellissimo, secondo me nessuno andrà più al mare dopo aver visto lo Squalo su schermo gigante. E poi a mezzanotte faremo Il vecchio Dracula di Todd Browning con Bela Lugosi, se esiste un film di mezzanotte è quello, entrambi in copie devo dire meravigliosamente restaurate dalla Universal. In epoca di digitale, Alberto, qual è lo stato dell'arte rispetto al cinema in pellicola? La pellicola sta per sparire, come sappiamo, ormai anche i dischetti, in realtà noi proietteremo da Blu-ray, ma anche la tecnologia su dischetto è già in qualche misura obsoleta. Pian piano nei prossimi anni le sale dovranno quasi tutte riconvertirsi al digitale. Questo è un bene e un male, è un bene dal punto di vista della qualità, perché la qualità digitale è superiore e soprattutto è più duratura nel tempo. Non ci saranno più quegli effetti che facevano tanto pidocchietto di periferia, no? Ti ricordi quando saltava la pellicola, quando la pellicola era rigata, quando il proiezionista magari si distraeva e faceva bruciare la pellicola. Ecco, questi incidenti non ci saranno più. La riconversione delle sale in digitale avrà anche i suoi contro, perché penso che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni un'ulteriore chiusura di sale, perché riconvertirsi è costoso e perché soprattutto le monosale, cioè le sale più piccole, le sale dei centri storici, faranno un po' fatica ad affrontare questa novità tecnologica. Penso che ci sarà una concentrazione sempre maggiore di film nei multiplex, nelle sale più ricche, più con una maggiore capacità di riconvertirsi tecnologicamente. Il cinema diventerà sempre di più un grande spettacolo per giovanissimi in qualche modo. Mm-hmm. È un po' a rischio la memoria del cinema di qualità, la memoria del cinema d'autore, ma insomma noi a Narni combattiamo per tenerla viva. Esatto. Almeno lì. Allora, ci dai anche riferimenti internet per la programmazione? www.leviadelcinema.it o comunque il sito del comune di Narni, dal 2 al 7 luglio, Narni Scalo, il Parco dei Pini, è facile da trovare ed è un bellissimo posto per passare una serata. Quest'anno il comune di Narni, devo dire, andando contro tendenza e investendo anche in un momento in cui gli enti locali sono tutti un po' alla caccia del gas, ha organizzato all'interno del parco anche un ristorante a tema cinematografico, e quindi si potranno passare delle serate, diciamo così, a 360 gradi, film e cena prima o dopo. Bene, ti abbraccio Alberto, a risentirci presto. Un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori, grazie mille. Ciao. Alberto Crespi, direttore della 19ª edizione di Narni, Le vie del cinema, rassegna di cinema restaurato dal 2 al 7 luglio. Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per parlarci della mini arena del Pigneto dal 1 luglio al 1 settembre. Patrizia, era un po' che non ci si sentiva. Assolutamente, buon pomeriggio, ciao Federico, sono contenta di essere con voi. Oh, ecco, che bello. Mi mancavate un pochino. Allora, dal 1 luglio al 1 settembre, 2 mesi pieni, dici un po', facci una panoramica generale di questa arena. Sì, la mini arena Pigneto, come insomma sappiamo ormai un pochino tutti quelli che amano il cinema bello, quello d'autore, le immagini belle, il movimento sotto le stelle, ormai è giunta un'edizione altissima, sta diventando quasi maggiorenne ed è un'arena come insomma da sempre dedicata ovviamente ai prodotti prodotti cinematografici, quelli che definiamo d'autore, che quest'anno però diciamo abbiamo voluto in qualche modo declinare un pochino nei toni della commedia, perché ci piaceva iniziare appunto e finire quest'arena con un po' di come dire, di sorriso, di sensazione di appartenenza positiva, visti insomma i tempi che corrono. E quindi la Miniarena di quest'anno è una Miniarena che si caratterizza come sempre per una programmazione da cineclub all'aperto, è chiaramente un'arena come da sempre anche questo indipendente, low budget, che non riceve alcun contributo e quindi che in qualche modo con molta fatica però riesce a realizzare la sua programmazione grazie anche all'aiuto di tutti quelli che ci partecipano proprio volontariamente con iniziative di vario genere. Tra queste iniziative per esempio ci sono i lunedì dell'arena, dove alcuni giornalisti, alcuni studiosi del cinema vengono appunto spesso, avremo 5 lunedì dell'arena, a rappresentare un po' degli spaccati di cinema particolari. Inizio da qui, dico questo brevemente perché ad esempio inizia il 1 luglio l'arena, come abbiamo detto, alle 21 nel centro anziani di via Filippo De Magistris al Pigneto, il più antico centro anziani che da sempre insomma è una caratteristica di Alphaville utilizzare, per utilizzare appunto spazi che il municipio 6 con cui noi facciamo questa arena mette a disposizione del cineclub, dell'Alphaville Cineclub che è l'organizzatore, per utilizzarli appunto anche quando invece non sono utilizzati durante l'estate. Io volevo ricordare che proprio il 1 luglio ci sarà questa Notte Pazza del Conigliaccio, che è un omaggio a un pubblicitario autore di tantissimi caroselli, e avremo appunto con noi lo studioso di cinema Ugo Caruso, che ci porterà, ci condurrà per mano tra i caroselli che, come sai Federico, sono tornati molto di moda insomma recentemente, tant'è che si rifanno, bruttini devo dire, però si fanno insomma, e noi parleremo di caroselli ma soprattutto faremo vedere questo film incredibile che è appunto un film sconosciuto perché non se ne trovano più le copie. Non so se tu Federico l'hai mai sentito, La notte pazza del Conigliaccio. No, non l'ho mai sentito. È un film del 1962 di questo, per la regia di questo appunto regista pubblicitario di caroselli Alfredo Angeli, che noi ricorderemo appunto in qualche modo, ma è un film particolare italiano, ecco abbiamo fatto proprio delle selezioni un po' particolari, dove il noir si mescola con diciamo una Roma notturna in bianco e nero, anche abbastanza strana, abbastanza insolita e sensuale, e la sensualità è appuntata diciamo sulle incredibili forme di Sandra Milo. Avremo per quella serata ospiti importanti, perché poi a questo film del 1962-63, e quindi stiamo anche celebrando in qualche modo l'anniversario, ecco diciamo che in questa notte pazza noi avremo anche degli ospiti, che quindi attori e alcuni insomma addetti della troupe, che parteciperanno alla nostra serata e ci racconteranno più da vicino che strano tipo di film era quello appunto che poi purtroppo non sei riuscito a trovare. Davvero è un capolavoro sconosciuto. Bene. Noi inizieremo con l'arena con questo. Chiaramente poi nel corso delle nostre settimane diciamo, oltre ad avere i nostri frutti di stagione, la selezione di cinema contemporaneo, avremo anche un lunedì dell'arena dedicato a Casablanca, perché insomma ci piaceva molto questa idea di ricordarlo, anche questo è un anniversario, con Rosario Trondolone, ma soprattutto avremo nuovamente la suspense di alcuni film di Alfred Hitchcock, tra i meno conosciuti, tra quelli grandissimi hollywoodiani, e quindi faremo vedere ovviamente una serie di film diciamo che sicuramente tu avrai visto, però è bello rivederli, tipo, non so, Delitto per delitto, La congiura degli innocenti, tutti molto anticotti, cioè dagli anni 30, addirittura dagli anni 20 fino agli anni 50, e faremo appunto queste nottate hitchcockiane, ma faremo anche una rassegna dedicata tutta al jazz, per dire, e che sarà introdotta senz'altro con da nostri musicisti che appunto verranno la prima serata per indicarci le note sulle quali poi guardare i film come Round Midnight di Tavernier piuttosto che Ascensore per il Patibolo di Mal o Anatomia di un omicidio di Otto Preminger. Senti, faremo Patrizia un omaggio a Dino Risi. Dimmi. No, volevo chiederti più in generale, quali se è tutti i giorni, è prevista l'arena, e poi quante più o meno, che mole di opere presenterete, quanti sono i lavori? Sono tantissimi film, tu considera che noi ne abbiamo selezionati almeno 6 per settimana, più considera l'omaggio a Dino Risi, dove verrà poi, sarà il nostro ospite Oreste Le Fornari in un lunedì dell'arena, considera che ci sono alcune serate, soprattutto quando è venerdì, in cui la proiezione si normalmente raddoppia, tipo, che ne so, quest'anno faremo una rassegna sull'hipster movie, non so se tu sei un hipster, Federico. Però mi sembra di no. però mi sembra, però è una rassegna che noi abbiamo deciso di fare perché c'è molto trambusto, no? Sì, anche al Pigneto, chi è hipster e chi no, che, ma allora se sei hipster è uno che va di moda ma non capisce niente, ma no, non è vero, eccetera eccetera. Insomma, alla fine abbiamo selezionato queste commedie che peraltro hipster non sono deliziose, e le facciamo vedere appunto con questo titolo, Hipster Movie. No, sono parecchi film, c'è pure per esempio un omaggio a Lubitsch, perché come sai, Federico, c'è stata questa restauro di Vogliamo Vivere. Sì. Noi non faremo vedere Vogliamo Vivere, ma tutta una serie di altri film. C'è Una notte bellissima, lunedì, che io spero che tu sia a Roma, che così ci vieni anche tu a trovare. Notte sconfinata, Twilight Zone, Confini della realtà, gli episodi dei Confini della realtà, quelli della serie televisiva del 1959, che dette la Steven Spielberg la stura per poi iniziare anche lui a fare, sin da giovane, a capacitarsi di una possibile idea di fantascienza. In realtà poi questi episodi di Twilight Zone, questi episodi dei Confini della realtà, che fecero molto impazzire la gioventù dell'epoca, in realtà non erano propriamente di fantascienza, ma erano più che altro, direi, filosofici, in cui lo spettatore si doveva confrontare con qualcosa che non faceva parte della realtà. Però da qui a dire fantascienza, forse altro da sé, direi, ecco. Però diciamo che sono davvero molto degli episodi molto particolari che hanno fatto crescere intere generazioni. Poi ci sono tutti i film estivi, quelli belli che uno si vede d'estate, anche un po' tristi a volte, uno, due, però c'è un Bergman Dannata, c'è Uno splendido estate violenta di Zurlini, ci sono tutti i film, chiuderà l'arena con i film di una selezione contemporanea di cinema francese, davvero di commedia, ovviamente, davvero molto graziosa. Io insomma credo che ce n'è per tutti i gusti, penso che un po' chiunque, e poi scusa, no, questo lo devo dire, Federico, lo devo dire, Edward G. Robinson, il nostro mitico Edward G. Robinson, uno degli attori più grandi della storia del cinema, che noi ricorderemo per l'anniversario appunto della sua scomparsa, con una serie di film incredibili che vanno, che ne so, da Lucio Fulci a Fritz Lang, da Billy Wilder a Fletcher. Bene, allora, visto che siamo in chiusura, dacci rapidamente i riferimenti per chi vuole vedere il programma. Dunque, si può andare sul sito www.cineclubalfaville.it e si può guardare appunto giorno per giorno la nostra programmazione. E, come volevo chiudere soltanto con la frase che appunto ha introdotto questa rassegna, con la quale introdurre questa rassegna, questo lungo evento, sarà un'estate serena, è una promessa della mia arena. Questa Bene. È carina, dai Federico. un abbraccio Patrizia, risentirci presto. D'accordo, a presto, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, siamo in chiusura, avremmo dovuto sentire anche Giorgio Ginori per la 19esima Isola del Cinema, lo faremo magari la settimana prossima. I riferimenti li trovate sulla pagina del sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, idem su Facebook, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.